piazze dell'ASL RME di Monte Mario, appunto del centro diurno, che sta lavorando e sta progettando uno spettacolo teatrale che si intitola Nella tempesta di Shakespeare. Adesso però vogliamo dare voce appunto a chi sta lavorando a questo teatro, lo sta vivendo e lo sta progettando, e sentiamo un po' che cosa ci raccontano. Buongiorno, io sono Marcello, sono un lavoratore del Centro Diurno La Voce della Luna, il Centro Diurno che produce questo spettacolo il 28 e il 29 alla Casa delle Culture qui a Roma. È un lavoro molto, molto importante dal mio punto di vista, perché è un lavoro che mira alla conoscenza del corpo, per così dire, e la conoscenza del corpo è vitale per poter uscire dalla propria condizione, per così dire, di prigionia. Il corpo può essere la prima prigione della nostra esistenza, ma può anche essere la prima opportunità per una liberazione della nostra esistenza. Quindi abbiamo preso a pretesto l'opera di Shakespeare per poter viaggiare e lavorare a partire dal nostro corpo. Il Centro Diurno La Voce della Luna è un centro diurno che si trova nell'ex comprensorio del Santa Maria della Pietà. È un centro diurno che ha diversi laboratori teatrali, anche cinematografici, video, e quindi è un centro diurno che lavora, per così dire, sull'arte. Pensiamo che l'arte possa essere un dispositivo attraverso il quale si possa andare oltre se stessi, per così dire, incontrare l'altro, incontrare se stessi e tentare di fare un percorso di liberazione. Siamo dentro l'istituzione psichiatrica, quindi è la prima istituzione che ci governa e decide delle nostre vite, e quindi il nostro lavoro è, per così dire, un lavoro di trazione, opposizione, micro conflittualità quotidiana, e il teatro è, dal nostro punto di vista, lo strumento per eccellenza, no? Di liberazione, almeno così noi speriamo. Questo lavoro che presentiamo venerdì e sabato prossimo al Teatro delle Culture è, crediamo, un'esemplificazione, l'esemplarità massima di come un lavoro sul corpo e sulla collettività possa diventare un lavoro, per così dire, politico. Di questi tempi nel nostro paese, dal mio punto di vista, c'è bisogno di spazi di libertà. L'arte e il teatro sono i territori della libertà in questo nostro faticoso presente, insomma, e quindi siamo qui per presentare questa radio che ha una storia, a proposito di libertà, di conflitti, eccetera eccetera, c'è una storia che, insomma, segna i compagni e compagni che lavorano qua dentro, che hanno lavorato da tanti anni, che ci lavorano da tanti anni, insomma, e quindi ci sembrava, per il nostro esordio, per il nostro esordio in una radio, mio, cioè delle persone che parleranno dopo di me, questo per noi significa, dal punto di vista simbolico, ha una grande importanza stare qui per la prima volta in radio, starci qui a Radio Onda Rossa. Volevo chiederti, ma da quanto tempo state lavorando a questo progetto teatrale? Gianluca mi dice che ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, diciamo così. Abbiamo già messo in scena quest'opera due o tre volte l'anno scorso, però siccome le persone che compongono il laboratorio entrano e escono, sono nuove, quindi è sempre un'operazione nuova, è sempre una messa in scena nuova, per dire, probabilmente se ce la facciamo quest'anno abbiamo due Ariel che lavorano, a differenza dell'anno scorso che c'era un Ariel solo, per esempio, per dire come messa in scena. Quindi è una messa in scena abbastanza diversa rispetto a quella degli anni precedenti. Quindi chi viene o chi ha già visto l'anno precedente quest'opera, credo quest'anno vedrà qualcosa di differente. È una continua evoluzione. Qui in questo studio oggi abbiamo quattro attori, tre attori e un'attrice per la precisione, e quindi anche voi, se volete raccontarci un po' come state costruendo questo spazio teatrale, qui ci sono i microfoni. Buongiorno, io mi chiamo Viola Leonardo, questo Il teatro ti fa capire tante cose, ti fa segmentare il colpo e curarsi tra noi. È una cosa che mi è sempre piaciuto farlo, la faccio da circa 3 anni. E ti fa dimenticare tante cose al di fuori della società, ti fa capire tante cose, ti fa scordare praticamente tante cose brutte, però ti fa il teatro è una cosa importante che ti, e noi lavoriamo tutti insieme segmentando il corpo e curarsi ognuno con noi, perché se uno un po' non si cura tra noi non riesce a lavorare bene come dovrebbe essere, invece se uno si cura tra di noi riesce a lavorare bene come deve lavorare. E tu prima dicevi segmentazione del corpo, io non capisco bene cosa voglio dire. Se segmentare, cioè, il corpo, ognuno di noi segmenta il corpo in vari segmenti del corpo, sarebbe varie parti del corpo in basso, alto e più alto ancora, quindi segmentare il corpo è poi le parole parlate, diciamo i ricordi di quando uno della tempesta della tempesta di Shakespeare. Presente che noi, uno poi facciamo la parte che facciamo abbassiamo i cappotti e raccontiamo ognuno di noi un ricordo di quando uno era piccolo e poi si rialza, e quindi è tutta una cosa fatta sempre con determinati tempi. Presente facciamo che quando abbassiamo il cappotto diciamo il ricordo di quando noi eravamo piccoli, a differenza di adesso, che adesso diciamo i bambini non è come io mi ricordo che giocavo sempre con le biglie, con i tappi, a differenza di questi bambini ci hanno giocattoli più costosi, ci hanno, sì, hanno un altro modo di forse giocare. A differenza di me di tanti anni fa, adesso penso i bambini ci hanno pure troppo, senza differenza di io giocavo. O forse troppo poco, visto che forse quando tu eri piccolo. Io addirittura con la skateboard praticamente, cioè adesso c'è sta quello moderno, io invece diciamo lo so costruito con legno e le rode di legno, e a differenza da adesso che non è. Vabbè, forse saranno tempi diversi di tanti anni fa adesso, però vabbè. Sì, diciamo che forse la differenza sostanziale sta appunto che voi giocavate, noi, perché probabilmente abbiamo la stessa età, giocavamo in strada costruendoci. Giocavi con le biglie, con i tappi, con le figurine a nascondino, però forse a differenza da adesso i bambini io vedo, non lo so, viziati, in senso che c'hanno tutto, giocattoli, poi ci giocano i giocattoli, i regali dopo manco meno di un'ora sono rotti, buttano per terra, forse a differenza di noi erano forse pure altri tempi, non ci stanno tante cose, ci stanno adesso, penso. Quindi, sì. Credo anch'io. Ecco, questa atmosfera che abbiamo qui oggi con queste luci un po' chiare al neon non riproduce esattamente quella che poi si può creare invece in un teatro dove voi andrete il 28 e il 29, 28 e 29 a recitare. Però tu adesso ci hai dato un po' un come dire, una piccola prova di quello che che sarà il momento in cui i cappotti. Però è un'altra cosa che mi sono scordato di dire, che in senso ogni persona che si integra lì al gruppo nostro, che va via e poi ne viene altre persone nuove, come dicevo prima dell'apre, chiaramente che se uno poi lo spiega perde tempo, invece se uno ovviamente si mette in mezzo a noi e se lo impara prima che se uno lo spiega si mette più tempo, come ci dice sempre il nostro regista, ci dice che sì, infatti è più facile imparare mentre si fa. Sì, che, perché sennò se lo metti a spiegare perdi una giornata per spiegarlo. Bene, sì, anche un altro attore vuol prendere la parola, a noi fa tantissimo piacere così. Io mi chiamo Giorgio Vincenzo e nel teatro segmentiamo il corpo, alti, bassi, curarsi uno con l'altro, nella tempesta Shakespeare, facciamo tante cose belli Chirinopizza, il regista, ci dice sempre: prendete lo spazio, quando lo spazio è bilanciato vi fermate. E fanno tante cose, curarsi uno con l'altro, prendere lo spazio, poi segmentare il corpo, fanno tante cose. Però a me questo spettacolo qua, che mi piace tantissimo. Ma anche la voce, cioè usate anche la voce? Sì, usiamo anche la voce, con i cappotti dietro nascosto, diciamo. Miranda sogna, Miranda ricorda, però che Nino Pizza regista bisogna, dobbiamo di staccare, che poi quando fanno il gruppo centrale, diciamo, ecco capitano che c'è, capitano affonda, si schianta, ecco capitano che c'è, fate un po' di coraggio nei marinai, ecco capitano che c'è. Quindi è un po' una storia che si svolge in mare. Nel mare, sì. E quindi questa tempesta di cui parlavamo prima è una tempesta che avviene anche in un ambiente, insomma, un po'. Sì, sì. Un po' imprevedibile. Sì, sì. Che poi una canna a Prospero gli mettiamo dietro la canna con i cappotti, e che poi da lì, dietro le quinte, dobbiamoci nascosti. Io faccio la nuvola. Tu sei una nuvola. Bellissimo, bene, veramente molto emozionante. Sicuramente noi verremo a vedervi e a partecipare a questo spettacolo. Se poi c'è. Sì. Forse volevo dire un paio di cose che mi sono dimenticato. Innanzitutto, certo, che, come ha detto Vincenzo, che lui sì, che si ricorda, la regia è di Nino Pizza. Insomma, che è questo regista che con grande fatica, ma io credo anche con grande gioia, lavora a questo progetto, a questo nostro progetto. Volevo anche dire che tra un mese siamo a Torino in scena al Teatro Espace, sempre con La tempesta di Shakespeare. E per noi andare fuori Roma, tra l'altro non abbiamo detto un'altra cosa, siamo in scena in 15. Quindi già stare in scena in 15 persone, e poi adesso tra un mese andremo anche a Torino, sarà una specie di esodo biblico per noi, insomma. E io sono molto d'accordo con quello che hanno detto Leonardo e Vincenzo, soprattutto con la tensione, perché la tensione che loro mettono in quello che dicono è quasi esattamente la stessa tensione che troverete se vorrete venire a vedere lo spettacolo a teatro, insomma, perché c'è una tensione importantissima, ed è un lavoro che, a partire da questa tensione, non la lascia andare via, ma la mette insieme, la mette in forma attraverso il lavoro, attraverso la messa in scena vera e propria. Quindi c'è una tensione che non è pura emozione, ma questa emozione poi viene, per così dire, lavorata, come se fosse una creta, viene lavorata attraverso il lavoro del gruppo, un lavoro veramente, io dico sempre, loro sono dei minatori, lavorano tantissime ore ogni volta, ogni giorno che proviamo, e questo lavoro io credo che si veda clamorosamente nella messa in scena, insomma. Noi ricordavamo prima che la regia, appunto, è di Nino Pizza, la produzione è La voce è della Luna, come dire, uno spettacolo del Centro Diurno Sperimentale che si trova a Monte Mario. Dicevi, ci sono 15 attori. Io qui ho i nominativi di tutti gli attori, se vi fa piacere, insomma, li facciamo conoscere anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Marta Reggio, Maria Galatro. Forse leggo io perché ho scritto io, quindi grazie. Forse ci vedo più. Viviana Librandi, Doriana Brugnoni, Carmela Levorato, Vincenzo Giorgi, Gianluca Santucci, Leonardo Viola, Caterina Stillitano, Federico Petrucci, Francesca Berardi, Mario Mei, Diana Pucci, Andrea Ferraro e Salvatore Gambilonghi. Allora, qui in studio abbiamo anche un'attrice che forse ci vuole raccontare quella che è la sua scena in questo spettacolo. Salve a tutti, io sono Caterina Stillitano. Io nello spettacolo interpreto il ruolo di Ariel, che, come diceva prima Marcello, è forse la nota più innovativa dello spettacolo di quest'anno, perché l'anno scorso avevamo fatto sempre una messa in scena della tempesta e c'era un solo Ariel. Questa volta invece ce ne saranno due, quindi la cosa si complica, è più complicato, ecco. Però è molto interessante come il regista è riuscito a risolvere questo problema, diciamo, dell'avere due Ariel, quindi Sì, perché era la figura un po' principale che poi viene condivisa da due persone, da due attori, sì. Quindi presumo che sia veramente interessante anche capire come... Io verrò a vedere personalmente lo spettacolo, che così mi faccio un'idea molto chiara. Mandiamo ancora un momento di musica e poi riprendiamo in voce. Now I swing around like a killer. We'll be right back. in. What's this information that I'm munching? The leader and the followers, the rock star and the model, the general and the pervert. E adesso stavamo un po', cioè, scusate, c'era ancora la musica. Ecco, adesso stavamo un po' chiacchierando qui e stavamo anche un po' sognando, perché ci dicevamo sarebbe bello mettere in scena quello che siamo noi stessi, e quindi le nostre emozioni, i nostri corpi, piuttosto che in un posto chiuso come il teatro, in un posto aperto come una piazza. Quindi posso... Sì, sì. Diciamo, sarebbe bello esprimere praticamente su una piazza grande con tante persone, esprimere il segmentare il corpo e ti fa scordare tante cose a livello di fuori, al di fuori del teatro. Quando fai, diciamo, fai teatro, non ti fa scordare tante cose brutte ci sono al di fuori del teatro e dentro le case di ognuno di noi, ti fa anche, diciamo, rilassare, ti fa il teatro è una cosa bellissima. Infatti noi che facciamo teatro, penso che ognuno di noi è una cosa bella, perché lì stai concentrato sul fare il teatro, le prove, e non pensi a altre cose. Poi dopo, cioè, è normale che poi quando uno poi esce da là, che ha finito di fare le prove, ci pensa mentre va a casa, però l'importanza è che uno non pensa quando, mentre sta a fare le prove, non pensa alle cose burocratiche, cose brutte, burocratiche, tutti gli affanni della giornata, che uno poi ci pensa, c'è il cervello, dice, ma come faccio a fare sta cosa se... Io almeno so, devo fare una cosa tipo un giorno prima, già ci penso, domani devo fare quello, ma come faccio? Invece il teatro ti fa pensare, cioè non ti fa pensare a quello che devi fare, che ne so, una visita, ci pensi prima, dici perché io mi spaccio la testa prima di quello che devo fare, quindi vabbè. Però il teatro ti fa capire tante cose, ti fa esprimere tante cose. A me il teatro era un sogno fare teatro, per me si è avverato sto sogno, che però un conto dice, lo vedi in televisione e lo vai a vedere e lo vai a vedere te, lo vai a vedere, e un conto che invece lo esprimi te, per noi ragazzi è una soddisfazione. Sì, una possibilità proprio di esserci sia con se stessi che comunicare anche agli altri quello che si è lontani dalle fatiche quotidiane che un po' assillano tutti noi. E poi c'è un altro punto che io non sto in scena, quindi vedo dall'esterno, che questo lavoro è un lavoro fortemente collettivo. Ci sono 15 persone in scena e non si può pensare di stare in scena senza sentire, respirare, senza sentire la presenza dell'altro, delle altre, insomma, di tutto il gruppo. Quindi è un lavoro nel quale ci si muove sempre in gruppo, di gruppo, diciamo così, si respira sempre in gruppo, non c'è mai il lavoro sulla parte dell'attore solitario e bla bla, ma c'è un forte sentimento di gruppo, un forte lavoro di gruppo, e questa cosa secondo me poi anche uscita dalle prove, uscita dalla performance, rimane, insomma, è un'abitudine che piano piano uno apprende a partire dal proprio corpo più che dalla propria mente, per così dire. Quindi è importante proprio questa coralità, e secondo me si sente, si vede, insomma, si sente a teatro. Io come spettatore sento questo gruppo che diventa un attore, insomma, e quindi sono tanti attori che sanno diventare un attore, insomma. 15 persone, tu non le vedi 15 persone, vedi un corpo collettivo, che si muove, insomma, e che a me mi sembra una cosa incredibile. Io non so come facciano, fanno una fatica, ripeto, tremenda. Riescono a stare su un singolo movimento un'ora. Il regista Nino Pizza gli fa, cioè, pretende giustamente, perché ha capito che sono tutti in grado, che questo gruppo è in grado di fare cose che normalmente non si fanno. Allora, Nino riesce a, cioè, pretende che si crei un movimento collettivo, ma proprio che è visibile questo movimento. È assurdo, tu non ti accorgi che ci sono 15 persone in scena, non te ne accorgi, pensi che sia un unico corpo. E questo non accade così per caso, accade appunto grazie al lavoro, alla fatica di sti maledetti qua che stanno in scena, e sono incredibili, insomma. Poi io dico, a me il teatro mi piace tantissimo, perché se si segmenta il corpo, perché quando lo spazio è bilanciato bisogna fermarsi, però ci dice sempre che Nino Pizza, che lui è un pazzo, scemo non è, però un pazzo, perché ha detto che vuole cose troppo precise, vuole cose in precisioni, che Nino Pizza, e si fanno tantissime cose al teatro, perché il teatro a me piace tantissimo, è bello, perché quando è Prospero che sta lì con i cappotti, uno deve uscire da dietro le quinte in scena e faccio la nuvola. Ma tutta la scena, cioè il regista dice che tutto deve essere equilibrato, no? Dicevi l'equilibrio del corpo, come si fa? L'equilibrio del corpo, perché uno quando cammina deve fare così, deve prendere i punti, fa così. E nel momento in cui questo equilibrio viene raggiunto bisogna fermarsi, quindi? Fermarsi, bisogna fare il segmento del corpo alti e bassi, da per terra in su. Beh, un'esperienza che mi affascina sempre di più, mi sa, ma è possibile che io possa partecipare un giorno a questo progetto teatrale? Perché... Sì, puoi anche partecipare, sì. Perché prima pensavamo alla piazza, no? Però se penso un po' a quello che potrebbe essere una messa in scena di questo spazio teatrale, io personalmente parteciperei. Sì, puoi anche partecipare, alla scena. E dico tante cose perché il teatro è bello, perché ti libera da tanti pensieri, tante preoccupazioni. Ha fatto teatro, perché anche ieri a me da venire a teatro mi ha preso un attacco di panico quando ho provato a fare le prove, mi è passato. In effetti questo è un laboratorio ovviamente aperto a tutta la cittadinanza, insomma, quindi non ci sono preclusioni né di tempo, nel senso, uno può entrare in questo laboratorio quando vuole, non ci sono ovviamente costi economici, insomma, non, ed è aperto a tutte le persone che vogliono fare questa esperienza, insomma. Tra è sicuramente un'esperienza molto faticosa, perché poi si pretende, giusto, secondo me, giustamente un rigore, una presenza, se uno si prende la responsabilità di venire è giusto, che perché appunto c'è un gruppo e tutti quanti vanno appunto rispettati, tutte le persone che vengono, quindi si deve fare lo sforzo di venire, ma dopo queste ovvie, insomma, modalità di relazione, dopodiché è completamente libero il laboratorio. Quante, insomma, volte vi vedete a settimana? Noi ci vediamo due volte a settimana, e il mercoledì e il venerdì. Da quest'anno, prima ci vediamo, fino all'anno scorso ci vedevamo sempre a Santa Maria della Pietà. Da quest'anno ci siamo visti per alcuni mesi una volta a settimana al Teatro delle Culture, perché stiamo cercando, appunto per le cose che dicevo all'inizio, di uscire da quella situazione, sia fisicamente dal Santa Maria della Pietà, e sia, diciamo, per così dire, ideologicamente, tra virgolette, da quella condizione. Quindi la città è nostra, il centro è nostro, non è, e quindi ce lo vorremmo riprendere, insomma, prendere, insomma. Quindi al Teatro delle Culture che giorno e a che ora vi incontrate? Adesso cambieranno, dopo lo spettacolo cambieranno gli orari, però ci siamo visti fino adesso il mercoledì dalle 3 alle 5, Tra l'altro sono prove aperte quelle del Teatro delle Culture. Il mercoledì dalle 3 alle 5, chiedo conferma perché io... Sì, dalle 3 alle 5. E invece a Santa Maria ci vediamo il venerdì dalle 3 e mezza alle 6 e mezza. Proviamo un po' di più. Ma pure lì è una situazione aperta, insomma. È più scomodo perché lì è un po' lontano rispetto alla centralità. Caterina fa... che abita dall'altra parte di Roma ci mette una vita per arrivare ogni volta, insomma. Però tra l'altro tutti quanti abitano quasi tutti abitano lontano e fanno tutti quanti una fatica, facciamo perché pure abitano lontano, una gran fatica a venire, però c'è anche una grande tenacia, si può dire, insomma. C'è stata qualche resistenza magari iniziale da parte di alcuni attori o di alcune attrici a iniziare questo percorso in cui ci si mette in gioco completamente? No, quanto riguarda io, no, cioè non c'è stata una resistenza, nel senso quando uno, giusto quando vabbè, uno quando vabbè, che non è venuto perché vabbè, in quei casi che stava male, influenza e febbre, sennò quanto riguarda me non c'è stata la resistenza. Non so se per... Semplicemente forse un po' per qualcuno o per qualcuna, forse un po' di imbarazzo iniziale, no? Vabbè, penso che sì, penso che imbarazzo sì c'è stata, penso per Caterina, per ognuno. Sì, io ho iniziato l'anno scorso e mi incuriosiva molto in realtà lo spettacolo, cioè l'ambiente teatrale, se possiamo definirlo così. Però insomma, essendo incuriosita, ho trovato la spinta per poter... Io sono timidissima, quindi ho avuto bisogno di questa spinta in più. E poi dopo questo, adesso finalmente sì. Riesci a recitare senza... nessuna forma di paura o di quel panico che prima... Oddio, quella c'è sempre, però io per esempio studio scenografia e non mi ero mai immaginata nel teatro in una cosa diversa che la progettazione di una scena, ma far parte proprio io di uno spettacolo recitando, quindi è stata una cosa totalmente nuova. E l'ansia c'è sempre comunque, ogni volta prima dello spettacolo, ma è giusto che ci sia perché va trasformata in qualcosa di positivo. L'ansia come condizione emotiva, no? Di tensione, sì. Verso quello che si sta facendo. Dicevi studi scenografia, sì. Per quel poco che ne so io, che veramente nel tema sono abbastanza ignorante, la scenografia è un po' la geografia dello spazio, no? È la costruzione, sì. Dello spazio. Sì. E in questa scena teatrale che voi mettete in atto, la costruzione dello spazio è costruita da oggetti di scenografia o? No, diciamo che la scenografia, cioè quella che si intende scenografia in modo più tradizionale, non esiste in questo spettacolo. Siamo noi stessi che andiamo a formare le scene, noi siamo un corpo vivo all'interno dello spazio teatrale. E poi una cosa che volevo aggiungere rispetto alla collettività di cui parlava Marcello prima. Lo spettacolo, almeno per quel che mi sento di dire, secondo me è molto improvvisato, nel senso che non esiste il prima parli tu, poi parlo io, poi parla un altro, ma lo spettacolo viene sempre diverso perché appunto c'è l'improvvisazione del momento, uno non sa quando parlerà, ma nel momento in cui inizia lo spettacolo e sente di dire diciamo una battuta, ma non sono battute, in quel momento lo dice e mette quindi emette anche dei suoni, perché non si tratta solo di parole ma anche di suoni, quindi una utilizzazione della voce un po' diversamente dal tradizionale. Sempre più interessante si fa questo viaggio che stiamo facendo oggi all'interno di questi studi della radio. Io comunque mi sento emozionatissima, non so perché, ormai forse anch'io sto iniziando a far parte di questo corpo unico di cui si parlava e si sta parlando, quindi proprio a causa della mia emozione personale. Adesso mettiamo un po' uno stacco musicale e poi riprendiamo la voce tra un po'. Riprendiamo la trasmissione. E ci piaceva parlare un attimino di un progetto che abbiamo varato, per così dire, nel 2010. Nel senso, abbiamo prodotto un film dal Santa Maria della Pietà, più che sul Santa Maria della Pietà. Un film che è stato a Torino, è stato al Cinema Aquila una settimana, che per un film, per così dire, prodotto da noi dal basso, è una cosa enorme. Il film si intitola Piano sul pianeta, il regista è Fabrizio Ferraro, prodotto dal gruppo Boudou. Mi piaceva parlare perché questo film, quindi uno strumento differente da quello del teatro, si affianca al lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo con il teatro. E volevamo parlare di questo film anche per dare agli radioascoltatori il sentimento, per così dire, del nostro progetto, che è un progetto complesso e complessivo, appunto, che muove da diverse forme, no? Artistiche, per così dire, il teatro e anche il cinema, appunto. Abbiamo quindi molti dei ragazzi che lavorano a questo spettacolo, hanno anche recitato, lavorato a diverso titolo alla produzione del film Piano sul pianeta, un film che, come dicevo, è stato al Film Festival di Torino, è stato visto parecchio in sala qui al Cinema Aquila e ci ha dato tante soddisfazioni. Proprio nel momento in cui si facevano altri film sul Santa Maria della Pietà, ma venivano un po' fatti da alieni che poco conoscevano e poco si integravano con quella realtà. Noi abbiamo costruito, fatto, realizzato questo film, vorrei dire, a partire dai nostri corpi che stanno lì dalla mattina alla sera e in qualche modo sono in trazione là dentro. Quindi mi piaceva parlare di questo film, e se vi capiterà di vederlo in giro, se riusciremo a farlo vedere anche noi in giro, sarà secondo me un'occasione, se verrete allo spettacolo, di continuare a stare in questa situazione, in questa posizione, anche al cinema. Cioè, noi crediamo che questa, la nostra cifra tra virgolette artistica, in qualche modo si possa riproporre anche al cinema, e credo si sia riprodotta al cinema con questo film. Insomma, questo mi premeva assolutamente dire, insomma. Il nostro è un progetto culturale e in definitiva politico, insomma, perché ci muoviamo su diversi piani, come dicono i ragazzi, sia a livello del nostro corpo, sia a livello delle diverse forme espressive che ci coinvolgono, insomma. E qui ci sono gli stessi attori che hanno partecipato, che stanno costruendo questo spettacolo teatrale, e sono stati anche gli attori che hanno partecipato alla costruzione di questa scena filmica, ecco, di questo film. Se avete voglia di dirci anche un po' se la differenza che c'è stata tra il mettere in scena i corpi in uno spazio teatrale e il far cinema, se c'è stata una differenza. No, niente, cercavo di capire se c'è una differenza per gli attori nel fare teatro, cioè mettere in scena i propri corpi, il proprio essere in uno spazio in cui ci sono gli spettatori, no? Comunque le persone che ci osservano. Cioè, diciamo, mettere in mostra il tuo corpo attraverso al pubblico, se ti senti diciamo imbarazzato forse, o... Sì, se c'è stata una differenza poi con invece fare il film, o anche lì c'erano degli spettatori, c'era un pubblico che... Sul cortometraggio abbiamo fatto il titolo, non mi ricordo come si chiama, Piano sul pianeta, ci sono sempre, diciamo, gli spettatori. Per esempio, quando siamo andati a Marsiglia, in Francia, e ci stavano gli spettatori, e io ho detto: questo cortometraggio mi piace, praticamente noi facciamo delle riprese, ognuno di noi fa una ripresa di quello che pensa, che di un posto che prendeva una ripresa, e poi facciamo tutto delle cose le eliminiamo praticamente, facciamo il montaggio. Della ripresa ci sono dei pezzi che non ci piacciono, e si tolgono, e si mettono quelli che sono meglio e si monta tutto il montaggio, e poi dopo sotto alla fine ci si scrive le persone che hanno partecipato. Praticamente tu prendi un'immagine, che so, un'immagine di Roma, poi dopo c'è stato dei pezzi che non ti piacciono, le spezzi, e sono tutta una cosa di concentrazione. Ma anche oltre a fare l'attore, anche al montaggio hai partecipato, quindi al tagliare i pezzi? Sì, ognuno di noi ha ripreso un'immagine con la telecamera, e praticamente ognuno di noi ha spezzato, però decidendo tutti insieme. Per esempio, caso Gianluca diceva: eliminiamo quella parte che ci sta, che non ti piace. Dicevamo, presente, è una cosa collettiva praticamente, decidiamo tutti noi ragazzi che facciamo. Quindi non facevi solo l'attore, no. Facevi un po' tutto, il regista, il montatore, tutto. Sì, però qua, decidiamo tutti insieme. Per esempio, c'è stata una parte da tagliare che hai ripreso in immagine, però se non ti piace decidiamo tutti insieme, e poi quando si fa il montaggio, e poi alla fine quando si fa tutto il cortometraggio, praticamente poi si porta, come abbiamo fatto a Marsiglia in Francia, l'abbiamo fatto vedere. Quanto tempo siete rimasti in Francia per fare questo lavoro? Insomma, mi pare 3 giorni, mi pare. Però considera che c'era partenza e ritorno, era diciamo un giorno, però vabbè, diciamo, ci hanno fatto fare anche il ritardo che dovevamo prendere quello di mezzogiorno e qualcosa, invece sono state 4 ore di ritardo e siamo arrivati là la sera alle 7:30, alle 8, poi una cosa un'altra, siamo sistemati e abbiamo dovuto traduci in francese. Invece noi l'avevamo, diciamo, l'avevamo tradotto in altre, non lo capivano, l'abbiamo dovuto tradurre in francese e l'hanno capito tutti. Invece, e c'è stata una grande soddisfazione per noi del cortometraggio e di Maurizio e di Marcello che abbiamo partecipato tutti insieme. Certo, dall'inizio alla fine. Ma le riprese iniziano dal viaggio o cioè le riprese di questo cortometraggio? No, che poi... durante tutto l'anno precedente noi ci vediamo il martedì e il venerdì e facciamo il montaggio di ogni anno, facciamo un cortometraggio nuovo. Pianeta su pianeta era quello dell'altro anno, e quindi quest'anno stiamo a costruire praticamente un altro. Ah, quindi ce n'è già un altro in uscita. Bene, benissimo. Ancora se c'è qualcos'altro, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, semplicemente volevo ribadire, perché come ci insegna Marchionni, la pubblicità è l'anima del commercio. E volevo semplicemente ribadire che il 28 e il 29 alla sala delle al Teatro delle Culture a via San Crisogomo 45 siamo in scena a Trastevere siamo in scena con uno spettacolo Nella tempesta di Shakespeare, la regia di Nino Pizza e del gruppo del Centro Diurno La Voce della Luna. E quindi non potete non venire a questo punto. Se non venite, vi prendete la responsabilità di perdervi un pezzo di vita. Sì, io confermo. Va bene, adesso nell'attesa che inizi un altro programma di questa radio che si chiama Tech Tisi, se la mia pronuncia non è sbagliata come al solito. Ci salutiamo e salutiamo coloro che ci hanno ascoltato e un abbraccio a tutti voi in questo momento.